Babbalza sempre tutto, esclamò la duchessa di Guermantes. Trovo affascinante un paese dove ci si preoccupa che il lattaio venda delle uova a belle marce, delle uova dannata. Mi pare di vedermi mentre ci intingo un crostino imburrato. Devo dire che in casa di zia Madeleine, Madame de Villeparisis, può capitare che vi servano cose in putrefazione, magari delle uova, appunto, e poiché Madame d'Arpajon protestava. Ma via, Fili, lo sapete meglio di me. C'è già il pulcino dentro. Non so nemmeno come mai siano così disciplinati da restarci. Non è un omelette, è un pollaio. È già tanto che non lo scrivano sul menù. Avete fatto bene a non venire a pranzo da lei l'altro ieri. C'era un rombo all'acido fenico. Non sembrava una tavola da pranzo, ma un tavolo operatorio. Bisogna dire che Norpois spinge la fedeltà ai limiti dell'eroismo. Se n'è presa una seconda porzione. Mi sembra d'avervi visto a casa sua il giorno che ha messo sull'attenti quel signor Bloch. Il signor di Guermantes, forse per dare un suono più straniero a un nome israelitico, pronunciava la «ch» di Bloch non come una «k», ma come nel tedesco «hock», il quale aveva detto di non so qual poeta, che era sublime. Châtellerault aveva un bel martellare le tibie di Bloch. Il poveraccio non capiva, convinto che le ginocchiate di mio nipote fossero destinate a una giovane donna seduta accanto a lui. Qui il signor di Guermantes arrossì leggermente. Non si rendeva conto di irritare la zia con tutti quei sublime distribuiti a destra e a manca. Per farla breve, zia Madeleine, che non ha peli sulla lingua, gli ha obiettato: «Piano, giovanotto, che aggettivo vi rimane allora per il signor di Busset?» Il duca era persuaso che il signor di, davanti a un nome celebre, fosse essenzialmente ancien régime. Era uno spettacolo da non perdere. «E quel Bloch? Che cosa ha risposto?» chiese distrattamente Madame de Guermantes, che, a corto d'originalità in quel momento, pensò bene di imitare la pronuncia germanica del marito. «Ah, vi assicuro che non se l'è fatto ripetere. Scommetto che sta ancora correndo.» «Ma sì, ricordo benissimo d'avervi visto quel giorno», mi disse in tono vivace Madame de Guermantes, come se il suo ricordo dovesse avere per me qualcosa di lusinghiero. «È sempre molto interessante da mia zia. All'ultima serata, dove ci siamo per l'appunto incontrati, volevo chiedervi se il vecchio signore che c'è passato davanti non fosse per caso François Coppé. Voi dovete conoscerli tutti», aggiunse con un'invidia sincera per le mie relazioni poetiche e anche per gentilezza nei miei confronti, quasi a mettere maggiormente in luce, agli occhi dei suoi ospiti, un giovane così versato in letteratura. Assicurai alla duchessa di non aver notato nessun personaggio famoso a quella serata da Madame de Villeparisis. «Ma come?» esclamò sventatamente Madame de Guermantes, svelando così che il suo rispetto per i letterati e il suo disprezzo della mondanità erano più superficiali di quanto non dicesse e forse non credesse. «Ma come? Non c'erano grandi scrittori? Mi stupite, e pensare che c'erano tanti tipi incredibili.» Mi era rimasta impressa quella serata per via di un banalissimo incidente. Madame de Villeparisis aveva presentato Bloch a Madame Alphonse de Rothschild, ma il mio amico non aveva afferrato il nome della dama e, credendo di avere davanti a sé una vecchia inglese un po' matta, aveva risposto a monosillabi alle frasi prolisse dell'ex beltà, quando Madame de Villeparisis, nel presentarla a qualcun altro, aveva ripetuto, questa volta molto chiaramente, «la baronessa Alphonse de Rothschild». Subito, allora, e tutte in una volta, erano affluite nelle arterie di Bloch tante idee di milioni e di prestigio, che la prudenza avrebbe consigliato di somministrargli a piccole dosi, da dargli come un colpo al cuore, una sorta di vertigine mentale. E, alla presenza di quella vecchia, gentile signora, s'era lasciato sfuggire un «se l'avessi saputo!» esclamazione la cui stupidità gli aveva impedito di dormire per una settimana. L'uscita di Bloch era in sé di scarso interesse, ma me la ricordavo come una testimonianza che a volte, nella vita, sotto l'effetto di un'insolita emozione, si dice quel che si pensa. «Mi pare che Madame de Villeparisis non sia assolutamente morale», disse la principessa di Parma, sapendo che non si andava in casa della zia della duchessa e pensando, sulla scorta di ciò che questa aveva appena detto, di poterne parlare liberamente. Visto però che Madame de Guermantes non sembrava d'accordo, soggiunse: «Ma a quel livello l'intelligenza fa passare sopra ogni cosa». «Avete di mia zia l'idea più diffusa sul suo conto», ribatté la duchessa, «e che è, tutto sommato, un'idea sbagliata. Me ne parlava Mémé non più tardi di ieri». Arrossì. Un ricordo a me ignoto le offuscò gli occhi. Supposi che il signor di Charlieu le avesse chiesto di disinvitarmi, così come mi aveva fatto dire da Robert di non andare da lei. Ebbi l'impressione che il rossore, per me incomprensibile d'altronde, che era comparso sul viso del duca quando aveva parlato per un attimo di suo fratello, non fosse attribuibile alla stessa causa. «Povera zia, si continuerà a considerarla un personaggio dell'Ancien Régime, spirito abbagliante e sfrenata scostumatezza, e pensare che non c'è intelligenza più borghese, più seria e più monotona. Passerà per una protettrice delle arti, il che significa che è stata l'amante di un grande pittore, il quale, peraltro, non è mai riuscito a farle capire che cosa fosse un quadro. E quanto alla sua vita, ben lungi dall'essere una persona depravata, era talmente fatta per il matrimonio, era talmente moglie sin dalla nascita, che non avendo potuto conservare un marito, il quale del resto era una canaglia, non è mai riuscita ad avere una relazione senza prenderla sul serio, senza metterla sullo stesso piano di un'unione legittima, con le stesse suscettibilità, le stesse sfuriate, la stessa fedeltà. E notate che spesso sono le più sincere. Insomma, ci sono più amanti che mariti inconsolabili. Eppure, Oriane, prendiamo il caso di vostro cognato Palamed, del quale stavate appunto parlando. Non c'è amante che possa sperare d'essere pianta come lo è stata la povera Madame de Charlieu. «Ah!» replicò la duchessa. «Vostra Altezza mi permetta di dissentire. Non tutti desiderano essere pianti nello stesso modo. Ognuno ha le sue preferenze. Ma le ha consacrato un vero e proprio culto dopo la sua morte. È vero che a volte per i morti si fanno cose che non si sarebbero fatte per i vivi. Prima di tutto», osservò Madame de Guermantes in un tono trasognato che contrastava con l'intenzione beffarda della frase, «si va ai loro funerali, cosa che per i vivi non si fa mai». Il signor di Guermantes guardò con aria maliziosa il signor di Breauté, come per provocarlo a ridere di una battuta così spiritosa. «Ma per essere sincera fino in fondo, devo dire», riprese la duchessa, «che il modo in cui mi piacerebbe essere pianta da un uomo che avessi amato non è quello di mio cognato». Il volto del duca si rabuiò. Non tollerava che la moglie emettesse giudizi a bambera, tantomeno sul signor di Charlieu. «Siete incontentabile, il suo rimpianto ha edificato tutti», ribatté in tono altero. Ma la duchessa aveva, nei confronti del marito, la stessa specie d'ardimento dei domatori o di chi, vivendo con un pazzo, non ha paura di irritarlo. «E va bene, sarà come dite voi, edificante. Non dico di no. Va ogni giorno al cimitero a raccontarle quante persone c'erano da lui a colazione. La rimpiange infinitamente, ma come una cugina, come una nonna, come una sorella. Non è il lutto di un marito. È vero che erano due santi, il che rende il lutto un po' particolare». Il signor di Guermantes, indispettito dal cicaleccio della moglie, la fissava con la terribile immobilità delle sue pupille pronte a far fuoco. «Non è per parlar male del povero Mémé che fra parentesi stasera non era libero», continuò la duchessa. «Riconosco che buono come lui non c'è nessuno. È delizioso, ha una delicatezza, un cuore che gli uomini di solito non hanno. Ah, un cuore di donna, Mémé!» «State dicendo delle assurdità», la interruppe vivacemente il signor di Guermantes. «Mémé non ha nulla di effeminato, non c'è persona più virile di lui». «Ma non dico che sia effeminato, assolutamente no. Cercate almeno di capire quel che dico», ribatté la duchessa. «Ah, Dio mio, appena all'impressione che gli si voglia toccare il fratello», sospirò rivolgendosi alla principessa di Parma. «È una cosa molto carina e incantevole da sentire. Non c'è niente di più bello di due fratelli che si vogliono bene», rispose la principessa di Parma esattamente come avrebbe risposto tanta gente del popolo, giacché si può appartenere a una famiglia principesca per sangue e, per intelligenza, a una famiglia decisamente popolare. «A proposito della vostra famiglia, Oriane», riprese la principessa, «ieri ho visto vostro nipote Saint-Lieu. Mi pare che abbia un favore da chiedervi». Il duca aggrottò l'imperioso sopracciglio. Quando non gli andava di fare un favore, non voleva che sua moglie se ne interessasse, sapendo che il risultato era lo stesso, che le persone cui la duchessa si sarebbe dovuta rivolgere l'avrebbero comunque registrato, quel favore, a carico della coppia, esattamente come se l'avesse chiesto lui. «Perché non me ne ha parlato?» disse la duchessa. «Ieri è stato qui per 2 ore e Dio solo sa quanto è stato noioso. Non sarebbe più stupido di altri se avesse avuto, come tante persone di mondo, l'intelligenza di saper restare sciocco. È quell'imbiancatura culturale che è spaventosa. Pretende di avere un'intelligenza aperta. Aperta a tutte le cose che non capisce. Viene a parlarvi del Marocco. Che orrore!» «E per Rachel che non ci si può ritornare», disse il principe di Foix. «Ma se si sono lasciati», intervenne il signor di Proté. «Si sono così poco lasciati che l'ho trovata 2 giorni fa nella garçonnière di Robert. Non avevano affatto l'aria di chi ha litigato, ve l'assicuro», replicò il principe di Foix, felice di poter diffondere ogni voce che valesse a sventare un matrimonio di Robert, il quale, d'altra parte, si lasciava forse trarre in inganno dalle intermittenti riprese di una relazione in realtà finita. «Quella Rachel mi ha parlato di voi. Mi capita di vederla al mattino passando per i Champs-Élysées. È una specie di svampita, come dite voi, quella che voi chiamereste una fraschetta, un tipo signora dalle camelie, in senso figurato, si capisce». A tenermi questo discorso era il principe Fong, che voleva mostrarsi aggiornato in fatto di letteratura francese e di sottigliezze parigine. «Ecco, a proposito del Marocco», esclamò la principessa di Parma, abbrancando al volo quel nome. «Cosa mai vorrà riguardo al Marocco?» chiese con voce severa il signor di Guermantes. «Oriane non ci può fare assolutamente niente. Robert dovrebbe saperlo». «Crede d'aver inventato la strategia», riprese Madame de Guermantes, «e poi usa certi paroloni incredibili per ogni minima cosa, il che non gli impedisce di fare dei pasticci quando scrive una lettera. L'altro giorno mi ha detto di aver mangiato delle patate sublimi e che si era assicurato a teatro un palco sublime». «Parla latino», rincarò il duca. «Latino?» si stupì la principessa. «Parola d'onore, non esagero, madame può chiederlo a Oriane». «Come no? L'altro giorno ha detto in una sola frase, in un colpo solo, non conosco esempi più toccanti di sic transit gloria mundi. Se posso ripetere la frase a vostra altezza, è perché dopo 20 domande e facendo appello a dei linguisti, siamo riusciti a ricostruirla. Ma Robert l'ha buttata là senza riprender fiato. Si capiva a malapena che c'era dentro del latino. Sembrava un personaggio del malade imaginaire. E tutto per commentare la morte dell'imperatrice d'Austria. Povera donna, esclamò la principessa. Era una creatura talmente deliziosa. Sì, convenne la duchessa. Un po' matta, un po' insensata, ma era una gran brava donna, una gentile e amabilissima matta. L'unica cosa che non sono mai riuscita a capire è perché non si sia mai comprata una dentiera che stesse su. La sua le si staccava di continuo. Ogni volta era costretta a interrompere il discorso per non inghiottirla. Quella Rachel mi ha parlato di voi. Mi ha detto che il giovane Saint-Lieu vi adorava, vi preferiva persino a lei. Mi confidò il principe Fon senza smettere di mangiare con voracità animalesca, la faccia vermiglia, i denti scoperti in una perpetua risata. «Ma allora sarà gelosa di me e mi detesterà», risposi. «Niente affatto, mi ha parlato benissimo di voi, l'amante del principe di Foix. Lei sì, forse, che sarebbe gelosa se le veniste preferito. Non capite?» «Andiamo via insieme, vi spiegherò tutto quanto.» «Non posso. Devo essere dal signor di Charlieu alle 11.» «Ma guarda, ieri mi aveva chiesto di andare a pranzo da lui stasera, ma non dopo le 11:15. Allora, se ci tenete tanto ad andare a casa sua, venite almeno con me fino al Théâtre Français. Sarete in periferia», disse il principe, credendo evidentemente che significasse «nei dintorni» o addirittura «in centro».